Amanti di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non vorrete mica parlare del Tour dei Sette Colli, quello che ieri sera il Bayern Monaco si è sciroppato gozzovigliando a Roma. Non vorrete mica parlarne sul serio, eh? 8-0-0-24-0-0-24. Ovviamente poi al Tour dei Sette Colli ci arriviamo. Ma intanto oggi è nato un altro tour ben più importante, quello giallo, il Tour de France. È nato stamattina, è stato presentato alle 11.30. E allora noi vogliamo parlarne subito. Con chi? Con Ivan Basso. Ciao Ivan, grazie. Buongiorno a tutti. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tutto a posto? Tutto a posto. Sei andato a dare un'occhiata a quello che ti aspetterà l'anno prossimo? Ma è la curiosità di un atleta, ovviamente, nella presentazione dei percorsi, prima quello del Giro, poi questo del Tour, è tanta, perché comunque mancano ancora tanti mesi, però si lavora già dall'inverno per questi appuntamenti e da come sono disegnati si decidono anche i programmi e le strategie all'interno delle squadre, quindi questa è la fase diciamo importante, dove si va a pianificare tutto quello che faremo durante l'anno. Senti, presentacelo tu questo Tour de France. Si parte da Utrecht il 4 luglio, ma è un tour strano. È un tour molto particolare, un tour che la prima cosa che si nota è che ci sono pochi chilometri a cronometro, ma ci sono molte tappe difficili, non solo dal punto di vista dell'altimetria, ma anche con dei finali particolari come il Mont de Bretagne, come il Muro di Huy, il Pavé, quindi ci sono delle situazioni dove si possono, abbiamo visto anche quest'anno, creare dei distacchi importanti, e poi nei 6 arrivi in salita che ci sono nelle 3 settimane diventa poi difficile recuperare se si perde troppo in questa parte della corsa. C'è l'Alpe d'Huez il penultimo giorno, questo è un altro grande ritorno. Sì, soprattutto un ritorno perché in una tappa, perché normalmente il penultimo giorno c'è sempre un cronometro, in questo caso c'è una tappa di montagna, una tappa importante, una tappa che sicuramente può, se la classifica non è ben definita, una tappa del genere può creare nuovi ribaltoni o comunque il posizionamento dei primi 3 classificati. Ti piace di più il Giro o il Tour, Ivan? Come percorso, come disegno, come caratteristiche di quest'anno? Ma è difficile chiedere a un corridore quale delle due corse. No, ma come disegno di quest'anno, cioè della prossima edizione? Sono due corse che io amo, quindi è difficile, sono due corse che ogni atleta sogna di correre, quindi il percorso, giralo come vuoi, è sempre spettacolare. Poi è ovvio che un percorso con poca cronometro o un Giro d'Italia con una cronometro lunga sposta a seconda delle caratteristiche di ognuno più l'interesse, però nel mio caso il ruolo che io avrò il prossimo anno, non so se al Giro o al Tour, quello lo decideremo nelle prossime settimane, però diventa meno importante, perché un ruolo di appoggio ad un grande campione che deve lottare per la classifica, deve prestare più l'attenzione generale nei 21 giorni che non in una tappa specifica o nelle tappe specifiche, quindi devi cercare di essere presente quando ce n'è necessità e nel momento importante, certo, della corsa. Certo, il tuo ragazzo ha imparato bene, eh? Vincenzo Nibali. Beh, diciamo che gli ha insegnato fin troppo bene, eh? No, beh, non è sicuramente merito mio. Noi siamo stati due compagni leali, due compagni che hanno condiviso degli anni bellissimi alla Liquigas, e la cosa che resta è sicuramente un rapporto di amicizia importante che abbiamo condiviso appunto in questi anni. Però è un atleta predestinato, è un atleta che in questi anni ha sicuramente si è costruito le vittorie che ha fatto, se le ha costruite nel tempo, passo dopo passo, e in questo momento è sicuramente nella fase più bella della sua carriera, dove può continuare a conquistare successi come quelli dello scorso anno. Senti Ivan, un'ultima cosa per chiudere con il calcio, non parliamo di Milan, ma a proposito, ti piace il Milan? Tifosissimo. tifosissimo del Milan, tifosissimo di Inzaghi, tifosissimo rosso-nero. Rosso-nero dentro, questo lo sappiamo bene, non è una squadra da scudetto, magari neanche da terzo posto, ma forse è una squadra per divertirsi. Non è detto. Pippo è grande, Pippo sa motivare. Io trovo che alla fine si vede già un grande lavoro, una squadra motivata, una squadra che lotta, e la differenza alla fine si fa anche con il coraggio, la determinazione, ed è quello che hanno dimostrato fino a questo momento. Ieri la Roma invece mi è sembrata come un ottimo corridore che su una salita dura, anzi durissima, si prende una cotta e prende un'ora di distacco. Ma come può succedere sportivamente una roba del genere? Ma innanzitutto quando ci sono dei risultati così, questa è la mia opinione, un risultato così è sicuramente falsato da una demotivazione. Sicuramente il valore delle due squadre non è quello del risultato finale della partita. Io credo che dopo la prima fase io l'ho guardata ieri sera con mio figlio, che peraltro gioca a calcio, è un appassionato, e per quel poco che io posso capire di calcio trovo che tutti i gol in più rispetto alla prima parte della partita sono dati più dalla demotivazione che non da poi l'effettivo valore delle due squadre. La Roma sta facendo un ottimo campionato e sicuramente saprà riprendersi, ma non è certamente il valore della Roma non è quello espresso ieri sera nella partita con il Bayern, pur essendo il Bayern una squadra fortissima. Beh certo, lo speriamo tutti. Ivan, grazie, bocca al lupo, grazie, ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti, buona giornata. Ma non vorrete mica, Ivan Basso lo ringraziamo, non vorrete mica parlare della tragedia di ieri sera? Io suppongo di sì, ho come questa impressione. Roma-Bayern 1-7, godo, ma sicuramente è stata colpa dell'arbitro che ha favorito la Juve, questo lo scrive un ascoltatore. Tutti convocati. Roma batte Bayern Monaco, i romanisti si toccano tutte le parti. Roma batte Bayern Monaco 2-1. Qui lo dico e qui lo confermo. La Roma negli anni, e quest'anno forse ancora più degli altri anni, ha sempre avuto una squadra che ha saputo giocare a calcio e che ha saputo fare molto bene in Champions, a volte anche meglio di quanto non facesse in campionato. La sensazione è quella di spaccare tutto, veramente, cioè quest'anno non ce n'è per nessuno. Incrociamo le dita e forza Roma. Siamo contenti, stasera sarà una bella partita. Speriamo bene, dopo tanti anni di sofferenza in Europa, speriamo bene che... Se ritorna bene, dai. Robben in area di rigore, prova il tiro, rete, gran gol di Robben, dentro per Müller, prova il ritorno per Götze, rete, doppio della Bayern, sorpreso De Santis, alla cross Bernat, palla in mezzo, Lewandowski, sono tre, Lewandowski rende palla per Robben, e la può aggredire la Bayern, la Roma proprio non c'è però, parte Müller, esecuzione perfetta, 5-0 del Bayern, Olevas, pallone per il greco, in mezzo c'è Gervinho, attenzione, il sesto gol segnato Ribéry. Rafinha che va al tiro, sfugge il pallone a De Santis, attenzione la porta è vuota, sono 7. Sì, però fate sentire anche il pronostico di Pardo, che arriva dopo le 15, peraltro, il pelandrone. Claudia Schiattone in redazione con Alessandro Marcotulli, Roberto Scaltretti in regia. Ci abbiamo preso tutti, tutti ottimisti, ci abbiamo preso tutti quanti, io che ho pronosticato il 2-1, lo stesso Pardo, i tifosi, abbiamo sentito l'entusiasmo, ce n'è per nessuno. 1-7. Alberto Porverosi, che di Roma-Bayern ha scritto oggi sul Corriere dello Sport sotto il titolo Bayern di un altro pianeta a servizio di apertura. Ciao Alberto. Ciao, siete stati un po' impietosi però. Troppo facile, così. Troppo facile. All'inizio mi sembrava Inter-Cagliari. Poi è diventato subito Brasile-Germania. Tra l'altro, curiosamente, al 24esimo 3-0, sia Brasile-Germania che Roma-Bayern. Sì, ma Inter-Cagliari non c'è fra l'Inter e il Cagliari la stessa differenza che c'è fra il Bayern Monaco e la Roma, insomma, francamente ce n'è tanta di più questa. Ma siete stati impietosi, perché questi sono esercizi che si possono fare, cioè, nell'82 che si poteva fare. Ti ricordi, no? Alla fine del girone eravamo già a casa e poi siamo diventati campioni del mondo, forse quella è stata la punta più alta, però calcio per fortuna ti racconta queste storie, perché sennò no, ma sicuro, sicuramente non sarebbe bello com'è. Si può parlare di presunzione? È stata una Roma presuntuosa come la famosa rana troppo gonfia che ha provato a giocare a pallone con il Bayern di Monaco, ma col Bayern di Monaco che insieme al Real Madrid sono nettamente di un altro pianeta rispetto a tutte le altre. Non si può giocare a pallone con il Bayern Monaco. No, io credo che la Roma abbia, allora, la presunzione è stata evidente, palpabile, se può essere palpabile la presunzione in quella partita, lo è stata, ma credo che la Roma abbia confuso il voler giocare alla pari col Bayern Monaco con non difendere. Cioè, io credo che ogni squadra ha le sue caratteristiche. La Roma finora aveva avuto una difesa basata molto, perché la Roma è una squadra spettacolo, il diverso, eccetera, ma ha basato molto sulla forza della difesa, non dei difensori, ma sulla forza del suo assetto difensivo, che prevedeva sempre una difesa fissa con tre giocatori, i due centrali più De Rossi, una difesa solida. Ma ieri questa difesa proprio è stata spazzata via, dalla sua presunzione, dalla sua dissennatezza. Ma io non dico che, allora, per evitare confusioni, giocare alla pari col Bayern Monaco non vuol dire giocare come il Bayern Monaco, ma vuol dire giocare la partita da Roma alla pari del Bayern Monaco. Ieri la Roma non ha giocato una partita, non ha attaccato, ma soprattutto non ha difeso. A me le squadre italiane che si riparano, si mettono la mano sulla faccia e vanno allo scontro fino a che non, poi tanto alla fine non cadono giù e perdono 2-0, cioè, come è successo alla Juventus col Bayern Monaco, quelli non le sopporto, ma non le sopporto, non mi piacciono. Ma la Roma ieri ha fatto una cosa peggiore, perché ha pensato di giocare attaccando senza occuparsi della difesa. Ma la Roma si occupa della difesa, anche si preoccupa della difesa anche quando gioca contro il Chievo. Sicuramente contro il Chievo vanno tutti belli beati e non marcano Paloschi. No, marcano anche Paloschi. Ma ieri Robben quando è entrato in area di rigore sul primo gol, Robben era uno schema su allenamento. Questo intendo dire. Tutto può essere. La Roma ieri, hai detto giusto tu, ha provato a giocare come il Bayern di Monaco, ma se giochi contro il Bayern di Monaco fai quel tipo di fine. È stata una Roma presuntuosa, ha sbagliato l'atteggiamento. Garcia ha fatto atto di contrizione, ho sbagliato tutto io, ci mancherebbe, perché è vero, ha sbagliato tutto quanto, a cominciare dalla, non so se dalla formazione. Ieri Cole è sembrato improponibile, ma come Cole tutti gli altri, quindi non sto facendo un discorso di un singolo giocatore. Semplicemente probabilmente abbiamo detto tutti quanti per molto tempo: ma la Roma tanto gioca in Europa con il cuore leggero, perché può permettersi di divertirsi in queste grandi partite. Con il Bayern, Alberto, devi giocare come ha giocato il Manchester City, che a me continua a non piacere neanche un po', come ha giocato il CSKA di Mosca, cioè devi impastarlo, tenerlo lì, impedirgli di scattare, perché se questi partono poi non li prendi più, come è successo ieri sera. Sì, io devo dire che la partita di Manchester, forse siccome c'ero, probabilmente ha illuso anche me, nel senso che non sono un tifoso, ma insomma ero lì e mi faceva piacere vedere una squadra italiana giocare a quella maniera. Ma Manchester, la Roma si è difesa. La Roma si è difesa bene. Nel secondo tempo ha fatto una partita, non vorrei dire esclusivamente difensiva, perché è ripartita e poteva segnare, ma ha fatto una partita a Roma, la grande squadra, e si è difesa. Questo intendo dire. La Roma doveva giocare quel tipo di partita lì, sapendo che di fronte aveva comunque dei giocatori fortissimi come quelli del Manchester City, perché Manchester City in attacco c'ha Zeko e Aguero, cioè non è che c'ha Aguero, si può discutere una vita, ma non credo sia più debole di Lewandowski, e Zeko non credo sia più debole di Götze quando si tratta di fare gol. Quindi giocavano contro avversari dello stesso livello e si sono difesi, è questo il punto, e hanno giocato alla pari del Manchester City. E questo intendevo Alberto, ma secondo te ieri poi i giocatori della Roma, c'è stata una serata molto particolare, sono usciti dal campo comunque abbracciati emotivamente dal pubblico e vinceremo tricolore, meraviglioso. Può avere ripercussioni in campionato una sconfitta di questo tipo? Non sono romano, però per lavoro ho frequentato e frequento tanto questa piazza e qualche timore ce l'ho, francamente, qualche timore ce l'ho, perché qui o sei il Papa o sei il diavolo, cioè non c'è una via di mezzo, insomma, quindi mi sembra che questo rischio esista. Ora deve essere bravissimo Garcia, ecco, ha detto di aver sbagliato tutto in questa partita e ha sbagliato tutto, ora deve risolvere il problema, tocca a lui, cioè non c'è un altro, non c'è la tifoseria, non ci sono giocatori, adesso tocca al condottiero, all'uomo guida, trovare una strada per non dimenticare questa partita, perché non va dimenticata nella maniera più assoluta, ma per trarne ovviamente tutti gli effetti benefici che ci possono essere, e ci sono, perché ora la Roma sa che non può giocare più con quel cuore leggero, con quella spensierata, con quella superficialità, con quella leggerezza con cui ha giocato ieri. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Alberto Polverosi, Corriere dello Sport, 800 24 00 24, numero verde. Ha parlato Mazzarri, che però non ha risposto a Moratti. Sono concentrato sul Saint-Étienne, non ho tempo di pensare ad altro e quindi neanche di rispondere a quello che ha detto Moratti. Vabbè, ma ne parliamo dopo. Un sacco di messaggi, i romanisti sono fantastici. Si sono messi una tale pressione da soli da essere arrivati al match con le gambe molli. Sembravano un ragazzino alla prima uscita con la bella della scuola. Arrivati al dunque, una cilecca pazzesca, scrive Guido da Modena. Massimiliano Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Allora, io volevo dire questo. Due giorni fa ho letto sul giornale, poi ho sentito anche in televisione, Garcia che diceva che il campionato quest'anno lo vince la Roma e che faranno in modo che prossimo anno Totti possa alzare la Coppa dei Campioni. Questo signore, che è molto bravo a fare l'allenatore, questo è indiscutibile, è una persona molto arrogante, presuntuoso e maleducato. Presuntuoso perché sta dicendo delle cose di cui non può avere nessuna garanzia. Semplicemente la sua opinione, cioè voglio dire, sì, a me piacciono gli allenatori che dicono, ma Garcia alla fine dopo Juventus-Roma ha detto, ho avuto la sensazione che quest'anno siamo più vicini alla Juventus, potremo competere per lo scudetto fino in fondo. Cosa doveva dire? Che abbiamo perso anche questa, andiamo tutti a casa, non corriamo neanche? No. Io dopo Juve-Roma non ho sentito nessuno, che infatti ci sono un po' rimasto, infatti ho provato anche a chiamare voi, perché quando Totti dice che la Juve dovrebbe fare un campionato a parte, ricordo a Totti e a tutta la Roma che la Juve ha fatto un campionato a parte nel 2006-2007, era in Serie B, sì. E mi sembra che la Roma non è arrivata prima, è arrivata seconda anche quell'anno lì. Sì. E ieri sera, se lei ha guardato bene, è stata una cosa che mi ha un po' colpito. A fine partita Guardiola ha stretto due mani a due persone, poi ha guardato verso la panchina della Roma per andare a stringere la mano all'allenatore della Roma e ha sgranato gli occhi quando ha visto Garcia correre giù per le scale. Questa è una persona maleducata. Se, o sarà stato arrabbiato per i fatti suoi, oppure sarà stato arrabbiato per motivi calcistici, magari perché il Bayern ma giustamente ha insistito anche troppo il Bayern, qualcuno dice in certe occasioni è meglio fermarsi. Io non la penso così. Io dico che si deve giocare fino in fondo e se se ne può fare uno in più se ne deve fare uno in più. È chiaro che sul campo può essere vissuto in maniera diversa emotivamente una situazione di questo tipo, quindi può essere letta in qualunque maniera anche in questa.

Ah, di noi. Nonostante i centimetri. Nonostante i centimetri. Come negli anni 80 mi piace, non lo hanno vinto mai, un anno solo, va bene, così va bene. Ma il problema della Roma è il romanismo. Cioè, questo, bisognerebbe indagare questo universo del romanismo. Ieri lo stadio strapieno, io ho parlato con tutti i romanisti, erano convinti di vincere, non di avere fare fatica a pareggiare la partita, ma convinti di vincere, perché ovviamente l'allenatore l'aveva gonfiati su questo punto. Mi ricordava Zeman che voleva andare a Torino con la Juve e dominare allo stadium dicendo adesso andremo a fare ma quella è un'altra cosa, questa è un'altra squadra, tre gol è un'altra cosa, questa è un'altra squadra, stessa storia. Guardate che la stessa vicenda, il problema di Roma è l'ambiente di Roma, il problema della Roma è questo qui, caricare di entusiasmi eccessivi, oggettivamente motivati, e mettere poi un'aspettativa troppo grande intorno a una sull'immotivati io non sono così d'accordo. Grazie a tutti e due, Paolo Cento, Mario Adinolfi, grazie davvero. Posso prima di concludere una cosa, ora ci abbiamo scherzato, mi fate dire che noi litighiamo sul calcio, io mi appassiono, si appassiona Mario, una bellissima trasmissione quella che fate, vi ascolto spesso, un abbraccio veramente di dolore per questo bambino di 7 anni e questo papà che hanno perso la vita ieri, perché poi per quanto è accaduto ieri sulla via Nomentana, accidenti la via Nomentana, non ne voglio parlare, ci dice che poi il calcio è anche questa passione che si tramanda tra padri e figli, e la tragedia di ieri poi ci riporta alle cose importanti e alle cose meno importanti, che sono quelle poi di fare una squadra di calcio. Ringrazio di averlo detto, grazie davvero. Grazie Paolo Cento, grazie Mario Adinolfi. Traffico, poi torniamo. Saverio da Milano è già lì, 800 24 00 24, numero verde. Convocati. Ma ve tu risate, li vedete tutti seri. Stiamo ridendo come pazzi, anzi gli juventini stanno ridendo come pazzi, perché almeno fino a questa sera verso le 23 è il loro momento. Stasera verso le 23 vediamo. Saverio, Milano, grazie per l'attesa. Ciao Genta, mi hai fatto aspettare un po', ma non fa niente. Grazie. Allora, io sono a Milano ma sono sardo. In sardo c'è una parola per definire i romanisti e Garcia. Barroso, che non è quello lì dell'Europa, è un'altra parola. Me la ripeti per favore, non si è sentito. Barroso, al plurale Barroso. Ecco, che vuol dire, ha diversi significati, soprattutto vuol dire lì sbruffone, può voler dire prepotente, può voler dire tante cose. Hanno fatto un sacco di scene, un sacco di storie, noi siamo forti, vinciamo di qua, vinciamo di là. Oh, e quei cazzo di tedeschi mica ci hanno creduto, sono venuti giù, e via. Non ci ha creduto. Non ci ha creduto. Hanno avuto paura, sono venuti giù. Ciao, arrivederci. Sì, ma comunque, scusatemi, ma perché Garcia non avrebbe dovuto dire siamo forti, io ci credo nello scudetto, eccetera. Non ha mai detto credo nella Champions League, perché sarebbe chiaramente una poco credibile bestialità. Non avete niente altro da fare? No, non abbiamo nient'altro da fare che commentare queste parole di Garcia, che ha fatto benissimo dal mio punto di vista a dire vabbè, con la Juventus abbiamo perso, però ho capito che la mia squadra c'è, ed ha ragione, perché ha giocato alla pari, al di là degli episodi di Rocky, di tutto quanto. La Roma ha giocato alla pari quella partita, non è stata come quella della Befana dell'anno scorso, tra schiaffi e via. La Roma è cresciuta, si è rinforzata, dunque fa benissimo a credere nello scudetto, e lo diciamo oggi che ha preso 7 fischi dal Bayern, fa benissimo a credere nello scudetto, fa benissimo sull'allenatore, a mio parere, a dire dobbiamo crederci fino in fondo, ma perché no? Giorgio, Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie, ho acceso da poco perché vi sento tutti i giorni, però oggi ho acceso un po' di tardo. Era il momento in cui è intervenuto quel tizio, non so chi sia, però pensa che forse di calcio ne capisce poco. Quale? Che parlava che noi, io sono juventino naturalmente, che noi juventini non abbiamo altro da fare che pensare, ci preoccupiamo della Roma. Forse quella persona, non so chi sia, ripeto, credo fosse Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio, tifoso romanista. Ha parlato per ultimo. Vabbè, comunque chiunque fosse, dica. Forse queste persone dovrebbero sapere che gli avversari storici della Juve sono Milan, Inter, forse qualche volta il Torino, il Fiorentina, cioè la Roma, così ogni tanto si fa vedere, come giustamente adesso, perché comunque è una squadra molto forte. Sono concordo con te quando dicevi poc'anzi che è andato a Torino quest'anno, ho visto la partita, è stata una bellissima partita, peccato per quegli episodi, però insomma hanno giocato tutto più bene, cioè alla fine hanno detto tanto, si è parlato costante di rigori o fuori gioco, certo. La Roma ha giocato molto bene ed è indubbiamente una squadra validissima quest'anno. Siccome ha fatto e fa molto bene l'allenatore a parlare in quella maniera, significa portare su la squadra. Ma certo, non capisco perché cosa ci sia da dire su queste parole di Garcia. Ha semplicemente detto la verità, cioè, la verità è questa: la Roma se rimane così, non perde la testa, non si abbandona al ponentino, non subentrano altre cose, non eccede nel vittimismo, perché ha cominciato a prendere questa deriva, mi pare, nell'ultimo periodo, probabilmente una scelta calcolata, l'ho detto molte volte, una strategia precisa, che Mourinho conosce molto bene, ad esempio, cioè quella di buttare pressione agli arbitri, di buttare pressione addosso al competitor diretto. Quindi la strategia è questa, magari si è fatto benissimo a dire quello che ha detto Andrea. Brescia, buongiorno. Buongiorno, quattro considerazioni velocissime. Una me l'hanno già rubata, io sono juventino e quindi ho goduto ieri tantissimo. Però credo che in realtà Garcia sia un bravissimo allenatore e Pallotta sia un ottimo presidente. Io vorrei che la Roma di Garcia, di Pallotta, di Sabatini, che era considerato un laziale dappertutto, addirittura vincesse lo scudetto, perché sarebbe importante per tanti motivi. Per l'idea che uno dei proprietari dei Boston Celtics venga qui e fa, cioè è molto importante questa cosa per cui, e sono d'accordo assolutamente con lei. La terza considerazione, l'unica cosa, Totti ieri non si è fatto credo vedere in sala stampa, cosa un capitano dovrebbe fare secondo me. E la quarta, aspetto che qualche onorevole romanista chieda l'interruzione dei rapporti con la Germania o l'uscita dall'Unione Europea. L'interruzione dei rapporti con la Germania o l'uscita dall'Unione Europea, magari anche no. Comunque, magari anche no. Comunque la sua telefonata è stata fin troppo buonista, devo dire. Quindi la raccogliamo così com'è, sentiamo GR, poi arriva Pardo, poi continuiamo a parlarne. 800 24 00 24, numero verde. Quindi io ho la mia filosofia, Conte ne ha un'altra, Mourinho ne ha un'altra, e tutti gli altri allenatori ognuno è diverso dall'altro, il modo di approcciare e di parlare con la squadra. Sì, loro corrono tantissimo, sembra un po' di rivedere il Barcellona di Guardiola, corrono tutti piccolini, rapidi, arrivano da tutte le parti. Questo l'ho detto, questo 1-7 è un incidente, questo giocheremo di 2 settimane e ti scommetto quello che vuoi. Che non finirà così e non sarà così. No, te lo dico io, vedrai. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Forse la gente non ne pensa, ma avevamo cose che non avevamo fatto così bene. Invece il secondo tempo è stato un disastro. E per arrivare più avanti con le squadre dove ti giochi tutto a una partita o a 2 partite, sbagli di questo non si possono concedere. Realmente siamo molto felici, molto, che non è facile venire qua in Italia e vincere così, ma ragazzi, piedi tranquilli, stare tranquilli e vedere quella cosa che ancora possiamo fare meglio. Così Guardiola che spegne giustamente il fuoco, ma non ci metterà molto, perché insomma non credo il Bayern, che è la squadra più forte d'Europa in questo momento e probabilmente in valore assoluto, certamente insieme al Real Madrid. Posso notare anche che, non so se siete d'accordo, che mai come quest'anno insomma c'è un'oligarchia ristrettissima per la vittoria di questa Coppa. È un distacco imbarazzante tra queste due e tutte le altre, Barcellona compreso. Non mi ha fatto una grande impressione ieri contro l'Ajax, il Paris Saint-Germain che ha vinto con grande fortuna e all'ultimo minuto sul campo dell'Apoel. Queste due sono di un altro pianeta. Oggi è una giornata molto divertente, perché è un giorno in cui finalmente i gufi possono volare liberi nel cielo alla faccia del ranking UEFA. Cesare Venezia, buongiorno. Sono un gufo Gruppo Veneziano Juventino. Buongiorno signor Carlo Tinta. Buongiorno signor Cesare, grazie. Buongiorno. Volevo dire una cosa. Quindi, vediamo se, aspetti, vediamo se c'è un gufo anche a Messina. Paolo, Messina. Buonasera, grazie per la convocazione. Fa il verso del gufo anche lei? No, non particolarmente. Juventino non particolarmente. Adesso la facciamo. Prima c'è un attimo, Paolo. Prima il gufo di Venezia. Cesare. Sì, grazie di avermi convocato. Grazie. Volevo dire una cosa. 15 giorni fa, dopo la partita Roma, Juventus Roma, ho sentito il signor Liguori dire che invitava tutti i romanisti di non andare più a Torino. Volevo sapere se invitava i romanisti ad andare o no a Monaco. L'ascolto per radio, grazie, bisogna, molto gentile. Bisogna chiedere a Paolo Liguori, non sono il suo portavoce. Io credo che molti romanisti andranno a Monaco, ma al di là di tutto. Perché sì, perché non può essere una partita come questa, sebbene un esito sportivamente drammatico, al quale peraltro la Roma, questo esito drammatico l'aveva già visto in faccia una volta, curiosamente con lo stesso risultato, da un'altra parte e contro un'altra grande squadra, il Manchester United, però non credo possa essere questa partita a far crollare il sistema Roma. Certamente, Garcia avrà le mani piene nel lavorare sulla testa dei suoi, perché non è stata una sconfitta qualunque. Oh, che bel gufo impagliato! Impagliato! E parla! È sicuramente molto meglio di te! Paolo, allora dicevamo? Io innanzitutto volevo parlare di un argomento che è stato trattato, che però secondo me non è stato trattato nella maniera giusta, cioè le parole di Garcia, che sono condivisibili dal punto di vista di un allenatore che deve comunque spronare una squadra a fare di meglio, e questo vale anche per Guardiola, per il Bayern Monaco, come l'ha detto ieri e in tantissime altre occasioni. La verità è che le parole di Garcia vengono da un sentirsi rubato, cioè lui, la verità è, parte dal presupposto che la sconfitta non solo era immeritata, e io da juventino sono d'accordo, ma perché si è sentito derubato, e quindi gli è stato tolto, poi possiamo dire che si danno e si prendono, ma qualcosa in quella partita gli è stato tolto. Ma che nella partita ci siano stati sicuramente degli errori da parte dell'arbitro, e di errori si tratta, perché io da tifoso juventino, quindi è chiaro che il mio punto di vista è sempre un po' da un lato rispetto all'altro, però io dico, se l'arbitro voleva veramente essere, come dire, influente sulla partita, dava il rigore sul Marchisio e buttava fuori. Sì, non lo so se le parole di Garcia sono state determinate da questo sentimento. Certamente sono state, è un pensiero condivisibile quello di Garcia, cioè questa è una Roma competitiva, lui è l'allenatore di questa squadra, e molto orgogliosamente, al di là del sentirsi derubato, mi sembra tanto, del sentirsi così immeritatamente sconfitto in quella situazione, non ci trovo nulla di male, anzi mi piace quando un allenatore dice: sono convinto della mia squadra, sono convinto che possiamo vincere lo scudetto, che male c'è? Intanto, come sapete, è anche giorno di tweet, ne ha fatto uno anche Garcia. È questo, anche se fa male, abbiamo già rialzato la testa, siamo secondi nel girone, possiamo qualificarci magari. I nostri tifosi ieri ci hanno dato tanta forza. Questo è il tweet di Rudy Garcia. Andrea Siena, buongiorno. Buongiorno, signor Gento. Io sono juventino anch'io, e volevo parlare dell'arbitraggio, ma anche in senso generale, non voglio fare il solito discorso, l'episodio a favore. Io certe volte, secondo me, viene parlato degli arbitri come fossero degli extraterrestri, e invece sono esseri umani, quantomeno hanno le sembianze. E devono arbitrare spesso sotto la pressione degli spalti, che gli gridano qualsiasi cosa in ogni momento, indipendentemente da quello che fischiano. Ma soprattutto hanno 22 professionisti che cercano in tutti i modi di ingannarlo tutte le partite per 90-95 minuti. E sembra la festa dell'antisportività, la gente dice non l'ho preso, quando l'ho affacciato, ho toccato la palla. Sì, ma non spetta, Andrea, però non spetta a loro, non spetta a loro autogiudicarsi. Cioè io non Fatto che l'arbitro sbagli è un dato di fatto. È un dato di fatto, come è un dato di fatto che sbaglino i giocatori, eccetera, eccetera. Io non credo che in questa faccenda, secondo cui ci debba essere poi più di tanta comunicazione o collaborazione magari tra i protagonisti in campo. I giocatori fanno i giocatori, certe volte fanno anche i furbi, gli arbitri fanno gli arbitri e quello è il loro ingrato mestiere, quindi non penso che non mi piace innanzitutto quando un arbitro chiede a un giocatore, perché questo è un segno di debolezza, perché non è compito del giocatore quello di rispondere, perché queste sono le regole del gioco ed è inutile fare buonista a tutti i costi. Di conseguenza l'arbitro certamente può sbagliare. Rocchi certamente ha sbagliato molto, hanno sbagliato in molti, tra cui Nicky a ritirare fuori la storia una settimana dopo dicendo no, non ha fatto niente, non ha sbagliato niente, ma come non ha sbagliato niente lo dice una settimana dopo. Poi ha riparlato Rocchi e poi andremo avanti a parlarne anche noi per un sacco di tempo. Intanto oggi giusto che i gufi volino alti nel cielo, no Andrea? Dicevo. Io volevo concludere il concetto dicendo che in questo clima secondo me il calciatore dovrebbe fare un minimo di critica, e se un calciatore entra in scivolata al limite dell'area alzando una gamba, ci sta che ti fischi rigore, poi indipendentemente dal centimetro o meno, se come Chiellini della partita Juventus-Atalanta allunga la gamba e quell'altro simula un po', non lo tocca, ma la colpa è di Chiellini, perché lo sai che in area se ti allunghi la gamba ci sta che ti dia rigore, ecco. E questo qui vorrei che il giocatore si autoresponsabilizzando in virtù di quello che fa tutta la partita, ecco. Sì, fino a un certo punto non si può chiedere troppo senso di responsabilità ai giocatori che stanno giocando, ma molto spesso anche loro stessi non si rendono esattamente conto di quello che succede, io credo. Comunque, siamo andati alla ricerca di Pardo, l'abbiamo trovato. Ciao Pierluigi. Ciao, dove stai? Bene, sono a Vicenza, questa meravigliosa mostra degli eroi del calcio che verrà prolungata fino a lunedì prossimo, sono io. Bellissima, dove è bellissima, veramente una cosa spettacolare, mai meli, interattività, multimedialità, poi nella Basilica Palladiana, quindi insomma un mix di mix, come dice il nostro amico Andro Sperco quando imita Nicky Vendola, no? Fa un mix, però è veramente un mix di antico e moderno, di cultura tradizionale, questo luogo magico e pop, perché insomma ci sono le maglie dei calciatori, le maglie. Anche il telefono è Dantan, come sappiamo, abbiamo messo in lista Dantan, il telefono è Dantan, vai e viene, il telefono è Dantan. Dantan fa ridere. Qualcuno ti cercava per chiederti un commento, qualcuno addirittura ha paventato di fossi nascosto per dopo il pronostico sbagliato di ieri. No, è un massacro, ieri sera è un massacro. Tanto ti sei perso la grande abbuffata con Paolo Centri ad Inolfi. Immagino, è divertente. Sì, te la sei persa, purtroppo te la sei persa. No, lo so, tipida zanzara. Detto questo, ieri c'è poco da dire, secondo me. Allora, chiaramente è un massacro, è una sconfitta di proporzioni pesantissime, perché perdere 7-1 in casa è comunque molto pesante. Il Bayern è una squadra eccezionale, ne parlavo prima con Ferrotta e Toni che se ne sono andati, insomma è chiaro che la forza di questa squadra, che a un certo punto, così, al settantesimo, a un certo punto fanno un'inquadratura in panchina, ma c'è anche Ribéry in panchina. Entra segna quel gol, ma che cosa vuoi? No, ma io ho la sensazione davvero, mai come quest'anno ci siano due squadre nettamente più forti degli altri. Una era quella di ieri sera, che è in questo momento la più forte, e l'altra è quella che detiene la decima, cioè il Real Madrid. Mi sembrano le altre questo, davvero staccate quest'anno. Si poteva essere meglio, senso che comunque forse la Roma ha affrontato la partita con un po' di presunzione, sono tutte valutazioni che facciamo dopo, no? Sicuramente insomma ha provato a giocarsela alla pari e chiaramente non ci è riuscita, ci sono stati errori e l'errore probabilmente è stato quello, no? perché non può giocare. Magari perdevi uguale, ma perdevi 2-0. Guarda, un ascoltatore prima ha mandato un messaggio: ma è possibile che nessuno dello staff di Garcia abbia visto Bayern Hamburgo 0-0 e come quelli gli hanno incartati? Perché è così che devi giocare contro quelli più forti, contro il Bayern di Monaco. Certamente avranno visto quel video, ma magari si sono illusi anche loro di poter guardare negli occhi il Real Madrid, cioè il Real Madrid, il Bayern di Monaco, che sembrava Medusa, invece li ha fatti rimanere paralizzati. Nainggolan, il giorno dei tweet: quel che non ci ammazza ci rende più forti. Questa mi sembra di averla già sentita, Pardo. Sì, no, ma questa è vecchia, però io voglio dirti, alla fine è vero, la Roma poteva e doveva salvare la faccia ieri in maniera completamente diversa, ed è normale che adesso siano una marea di italiani che pubblicano foto, battute, eccetera. Questo fa parte assolutamente delle regole del gioco e della bellezza del calcio. Detto questo, perdere 7-1, perdere 2-0 a questo punto della competizione pesa poco. Secondo me la Roma ieri si è arrivata malissimo, sicuramente doveva essere più umile. Molti giocatori, penso a Cole in particolar modo, anche De Santis, sicuramente non ha beccato una grande giornata, ma quasi tutti, guarda, forse l'unico salvabile è stato Gervinho e poi Florenzi un po', secondo te. Quindi è chiaro che è una Caporetto clamorosa. Detto questo, poi le pagine dei giornali fra due giorni sono finite, le battute dureranno tutta la vita, ma chi se ne frega. Sì, resta da capire se lascerà delle tracce una sconfitta di questo tipo. Non sono d'accordo, Pierre, sul fatto che perdere 2-0 o 7-1 sia la stessa cosa a questo punto, perché una sconfitta di questo tipo potrebbe lasciare delle scorie, delle tracce sulle quali Garcia dovrà lavorare, immagino, oppure dall'altra parte si potrebbe dire: è stata talmente, come dicevo prima, caricaturale questa sconfitta, talmente eccessiva ed esagerata, che forse è più facile spazzarle via quelle scorie. Questo non lo so, non riesco a capirlo, e lo scopriremo al prossimo giro di campionato. Beppe da Torino, buongiorno. Buongiorno. Le telefono per questo, dei gufi per le squadre italiane che giocano in Europa. Sì. Io sono juventino, ma trovo assurdo che si continui a gufare per quel che possa servire e non essere contenti, in modo da poter garantirsi a un certo numero di squadre in Europa. Sì, ma guarda, ognuno la vive come se la sente. Io non il calcio è un magnifico gioco, non trovo niente di sbagliato, di perverso, di così grave nel dire: vabbè, i nostri rivali giocano con il Bayern Monaco, che è una squadra che è forte, mi è simpatica, quasi quasi tifo per loro. Cioè, non trovo niente di così sbagliato, di così perverso nel gufismo, perché stiamo parlando appunto di un gioco. Poi è chiaro, c'è il calcio italiano in crisi, c'è il ranking UEFA. A proposito, io e Pardo abbiamo alzato la testa, e qui faccio atto di mi cospargo il capo di cera, abbiamo alzato la testa nei due precedenti turni di Coppa, dicendo: ah beh, ma perché continuiamo con questa depressione, in fondo non stiamo nemmeno andando tanto male. Ieri sono arrivate 7 mazzate sulle corna a tutti e due. Pietro Milano, gufo o non gufo? No, sono Giallo Rosso, altro che gufo. Sono opposto. Dica. No, niente. Vabbè, scusi, giallo rosso, gufo o non gufo, stasera gufo o non gufo, o Juventus o quei simpaticoni dell'Olympiakos? Vabbè, stasera forza Olympiakos senza paura proprio, cioè tutti in Grecia a tifare Olympiakos, lo spirito è questo, non c'è bisogno di... C'è la goliardia anche questa, la goliardia anche questa. Buffa, Ma sì, cioè... si siede lì e dice: ma l'Olympiakos è una squadra di grandi tradizioni, greca, sono carini. Dico una cosa, noi della Roma ce ne basterebbe uno stasera, non è che dobbiamo sperare che ne fa 7, basterebbe uno degli Olympiakos e siamo pari patto. Vabbè. Tornato anche io alla questione del ranking, adesso sentivo l'ascoltatore, no? Ma solo quando si diminuiscono i posti per andare in Champions League che si fanno squadre più forti. Perché se in Italia basta arrivare quarti per arrivare in Champions League, quest'anno vediamo che con una squadra tipo a oggi Mina, Sampdoria, Udinese si è quarti. Sì. Se invece i posti sono 3 o 2, la squadra deve essere veramente forte per poter arrivare. Quindi, cioè, più posti sono, secondo me è tipo un ciclo, no? Più posti ci sono, più il livello si abbassa. Poi abbassandosi il livello si abbassa quindi anche il ranking, perché UEFA si prendono. e si torna a questo giro di dover fare squadre un po' più forti per arrivare secondi, ma, terzi, più che altro, sul ranking UEFA ci sarebbe da lavorare duramente nel fango dell'Europa League, e speriamo che quest'anno le nostre la possano giocare fino in fondo, e magari perché non alzarla, perché le possibilità lì ci sono. Tornato Pardo, abbiamo provato a ripristinare il collegamento satellitare. No, sono per dirti proprio a che livello di umiliazione sono arrivato. Cioè, questo l'avete chiamato al fisso di un ristorante di Vicenza. Cioè, siamo a questi livelli qui. Proprio il mio telefono adesso lo frullo e lo... Ma si sentiva così male? Ma, ci sono le prove. Adesso? No, adesso è perfetto. No, ma ci sono le prove. Non è che ti sto prendendo in giro. Adesso sono col cellulare. Come si sente? Con cosa sei? Col cellulare o col fisso del ristorante da Gino, dove stai mangiando il baccalà alla Vicentina? 4-4, una cosa di altissimo livello. No, ho mangiato il baccalà. Lo sapevo. Senti, ma stiamo parlando di gufismo o non gufismo, sì, ma su questo siamo. Abbiamo detto mille volte: il tifoso fa quello che gli pare, ci mancherebbe altro. Insomma, io che fa il tifoso? Non riesco a prendermela con gli juventini o quei laziali che hanno inventato storielle nelle ultime ore contro i romanisti. Non riesco a prendermela con quell'ascoltatore prima che diceva che ti farà Olympiacos, sì, che fa parte della vita del gioco. Noi che insomma siamo un po' sereni, che insomma ce ne frega un po' meno. Io ti ho fatto Roma la grandissima, cioè non ho dubbi, però sai, se uno è coinvolto in vicende di tifo ti fa quello che gli pare, e non c'è nulla da dire. Roma la grandissima, Roma che mi ha deluso un sacco, e ti ripeto, al prossimo giro di campionato proveremo a capire se questa sconfitta ha lasciato delle tracce che peraltro non ha lasciato in classifica, perché anche in questo Garcia ha ragione nel suo tweet: siamo secondi nel girone, possiamo qualificarci. C'è stato questo abbraccio colossale da parte del pueblo giallorosso: alla fine vinceremo il tricolore, questo bagno di... Quello è stato bello, bello, certamente. È stato bello, al di là del vinceremo il tricolore, che secondo me aveva anche una sua connotazione proprio ironica, autoironica, e anche, se vuoi, di scelta di campo, nel senso che poi comunque alla fine la partita di ieri sera in qualche modo ha detto che la distanza rispetto alle primissime in Europa è enorme. E quindi che se c'è una partita che la Roma... Sì, ma non è questa però, Piero. Io devono fare quella... Ma non è questa però, non è 7-1, dai. No, ma non è 7-1. Ma guarda, Guardiola ha parlato, secondo me, con eleganza, e ha parlato di un incidente, no? Cioè, ha parlato di una circostanza eccezionale. È chiaro che la partita di ieri è una partita che ha un'eccezionalità. Io non penso fra due settimane la Roma riperda 7-1 a Monaco. Però tanto è successo, e questo è un dato incontrovertibile e oggettivo che segna la distanza ieri sera fra queste due squadre. Poi fra queste due squadre ovviamente non ci sono 6 gol, ce ne saranno meno, però c'è una distanza, e questa distanza si pensava e ci si illudeva in casa Roma che potesse essere molto inferiore. Quindi questo è il dato politico della serata di ieri, rimane dato politico. Sul campionato vediamo sabato, però insomma, io mi ricordo dopo Manchester che la Roma reagì vincendo in casa con la Samp 4-0. Io credo che quella di ieri sia stata una partita sbagliata, una crisi di crescita complessiva di questa squadra, che ha fatto cose eccezionali nell'ultimo anno e mezzo, ma che evidentemente non è ancora a quel livello lì. No, certamente non è ancora a quel livello lì, ma questo si sapeva già. Tutti convocati. Andiamo dalle locandine di famosi film, cioè chi ne ha ridisegnata una, Seven, Two. Ricordate il famoso film Seven? Ricordate il Seven preso dalla Roma a Manchester? E questa volta c'è il remake, no? Seven 2 ha disegnato qualcuno. Che goduria immensa, ragazzi, non potete credere, ma è fantastica. Una 7. Dall'Olimpico si vedono bene i 7 gol. Forza Lazio, scrive un altro ascoltatore. Ma il più interessante per Pardo ed è questo: vorrei per favore la ricetta del baccalà alla Vicentina, grazie. Posso passarti qualcuno? Sai, ma tu non sei di Vicenza, lui è di Napoli. La ricetta del baccalà alla Vicentina la puoi dare? Allora, praticamente si prende lo scialatiello, ci si mette la scialatiello. Ti passo un attimo. Lo scialatiello. Angelo Palladio, buonasera. Buongiorno, senta, siamo tutti convocati, siamo anche un'informazione, vogliamo fare un'informazione di servizio, ci chiedono la ricetta del baccalà alla vicentina. Chiaramente ci sono tante forme, però quello che posso dire io è un orientamento insomma generale di come si può fare il baccalà alla vicentina. Allora, praticamente sto capisso in ammollo circa tipo 3 giorni, perché di base è un prodotto molto duro, quindi mi faccio smolare un po' insomma in acqua. Sì. Poi, anzi no, adesso faccio una cosa migliore, che c'è proprio lo chef. Sì, allora chef, magari è romanista. Una nozione proprio di tipo tecnica. Sì. Radio 24, allora, baccalà alla vicentina, Andrea, come si fa? Baccalà alla vicentina, Andrea, come si fa? Buongiorno. Buongiorno. Piacere. Devo dire la ricetta. E ce la chiedono, gli ascoltatori ce la chiedono. Noi stavamo parlando della Roma che ha preso 7 fischi. E... L'ha vista la Roma ieri sera? Ho visto cosa, scusi? La Roma che ha perso. Guardi, 7-1. Io di calcio proprio non lo niente, seguo. Niente, allora cacci niente, via Pardo. Pallacanestro. Pallacanestro, meglio. 2 metri, quindi mi interessa. Meglio. Senta, ma mi dica del baccalà alla vicentina. Allora, il baccalà alla vicentina intanto bisogna prendere uno stoccafisso di qualità ragno. Sì. Lasciarlo in ammollo in acqua corrente per 2 giorni. Batterlo bene, dopodiché va aperto, piliscato e messo farina, cipolla stufata, acciughe, parmigiano. Chiuso, va legato, dopodiché va tagliato e va messo in un tegame con i pezzi stretti e coperti di olio e latte nella stessa quantità, olio extravergine d'oliva e latte intero. Lasciato cuocere piano per 3 ore e mezza, senza mai toccarlo né girarlo, niente, non va toccato. Sì. Questa è la ricetta, perfetto. Io la ringrazio moltissimo, abbiamo fatto felici molti dei nostri ascoltatori che ci hanno chiesto appunto con l'acquolina in bocca, perché Pardo l'ha mangiato prima, volevano la ricetta del baccalà alla vicentina, è questa, non è semplicissimo, ma è una meraviglia. Usciati e non c'entra niente. Della confraternita del baccalà. Grazie mille. Meglio di così non era possibile fare, cari amici ascoltatori. Caro Giorgio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Che cose volevo dire? Io siamo andati? Siamo andati perfettamente, c'è una roba che sarei in grado quasi quasi di farlo anch'io. Quasi quasi ci provo. Guarda, la cacio e pepe è la mia religione, ma subito dopo un culto immediatamente inferiore che è quello del baccalà. Al secondo posto, con un leggero scarto, come Roma e Juventus, facciamo così. Distanti vicine. Vicine. Giorgio? Sì, io ho mangiato già la carbonara, quindi se volete potete continuare, non è un problema. Mangiamo la carbonara? Carbonara per Giorgio, sì. Diga. Tre cose volevo dire, io sono un romilanista, nel senso che sono nato a Milano, ma vivo a Roma da 10 anni. A casa mia siamo tutti romanisti e milanisti. Come Massimo Boldi in quel famoso film. Come un milanese a Milano? Ma allarghiamo lo spettro, facciamo... No, un milanese a Roma. Oh sì, scusami, un milanese a Roma, sono bollito, prego. Un milanese a Roma. Penso che ci scriverò, dopo questi 10 anni, sono all'undicesimo anno, ci scriverò un libro, perché mi piace scrivere, perché veramente ci sono delle cose interessanti sulle due città, sulle differenze, sulle cose comuni, sull'impatto soprattutto iniziale. Devi abituarti ad alcune regole che ogni città ha, altrimenti non sopravvivi, non assolutamente, però prendo, io sono qua da 11 anni e non mi sposto, cioè miei figli, mia moglie è qui. Dove vuole andare? No, come no, Pardo che ha fatto il percorso inverso, ma non esiste. No, assolutamente. Dica no. Giorgio. A Milano ero abbonato al Milan, qui ho fatto l'abbonamento Champions della Roma, ieri sera ero allo stadio. Prima cosa che voglio dire è questo, davvero encomiabile, l'avete detto, il tifo della Roma, dei tifosi lassù, mamma mia, cioè, a Milano se fosse stato Milan-Bayern 1-7 non riesco a immaginarmi come cosa sarebbe venuto giù a San Siro. Io ho vissuto i tempi anche della contestazione a Maldini, se ricordate, tutti di schiena girati, Ecco, okay. Quindi Roma veramente da questo punto di vista, il tifo secondo me è encomiabile, l'avete detto, lo voglio risottolineare. Dal punto di vista della squadra ho visto il Bayern di Guardiola, secondo me ancora più forte del Barcellona di Guardiola. Sì, sono d'accordo. La Roma ha sbagliato, come avete mi pare detto, perché poi ero al telefono, in presunzione ad affrontarla così a viso aperto, e questo ci siamo scoperti, e vedere De Santis che non sapeva mai a chi dare la palla e tutti si giravano come a dire a me no, per favore, a me no, questi stavano lì, e quindi però è stato uno spettacolo comunque stupendo, onore delle armi. E ovviamente stasera, a proposito di quello che avete detto, gufo contro la Juventus. Gufa, ma non peraltro, perché l'Olympiacos è una squadra che a molti è simpatica. Fosse un'altra, magari ci riusciamo. Però, Carlo, la cosa di ieri, secondo me, va sottolineata come le cose belle che sottolineiamo di tanto in tanto. Gli angeli del tango di Samp e Genoa uniti, insomma, sono cose poi banali, dovrebbe essere la normalità. Ieri i tifosi della Roma, secondo me, hanno dato una bella dimostrazione, perché comunque, insomma, la sconfitta è stata umiliante, è stata proprio una roba per la quale ti prenderanno in giro per anni, e però i tifosi della Roma hanno mostrato veramente la loro anima, il loro amore, il loro affetto, hanno sostenuto la squadra fino alla fine, l'hanno rincuorata, e secondo me è una spinta eccezionale per il futuro, e va detta questa cosa qui, perché insomma non senti, possiamo, Pier, mi spieghi una cosa, le mani agli inglesi quando retrocedono e vanno a tributare comunque l'applauso ai loro giocatori, e lo facciamo, dobbiamo farlo anche ieri sera nei confronti della curva sud, sicuro, che sono stati, mi spieghi un'ultima cosa, poi ti lascio, qualcuno suggerisce un digestivo per te, qualcuno ti rimprovera perché sta mangiando dei cracker, ma dai, scrive un ascoltatore, sto mangiando dei cracker, ma dai, e voi mi parlate di baccalà alla vicentina, io chiedo venia, non mangiate neanche i cracker, io glielo giuro. Ma io adesso invece ti passo Gianni Cazzoli dell'Associazione dei Calciatori, che ti spiega perché fino a lunedì prossimo ha veramente senso venire a Vicenza a vedere la mostra, che cosa c'è nella mostra, che poi presto arriverà anche a Milano. Io oggi sono venuto qui, ho fatto 6 ore il turista, poi stasera torno a Milano a lavorare sulla Champions. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, Pardo non me l'ha spiegata bene, me la spiega lei? Mi spiega lei che cosa c'è? A Vicenza il 26 agosto è stata inaugurata la Basilica Palladiana, questa mostra si chiama Eroi del Calcio, che praticamente racconta 115 anni di storia del calcio dagli inizi al Novecento ad oggi attraverso 12 sezioni in cui cronologicamente sono state esposte le maglie più rappresentative dei club, quindi dei grandi giocatori italiani, dall'inizio del secolo. La maglia più vecchia è del 1902, la maglia della Scozia, poi c'è per dire l'epoca, la maglia di Levratto, quello che sfondava le reti quando calciava. C'è una sezione dedicata ovviamente alle vittorie della nazionale ai mondiali 34-38, c'è esposta l'unica maglia, la maglia azzurra è la maglia dell'antonomasia dell'Italia, ma nel 38 giocarono con la maglia nera, ovviamente si era in epoca fascista, quindi ci sono tutta una serie di cimeli al di là delle maglie, delle scarpe, l'evoluzione dei palloni, c'è tutta la storia dei palloni, quelli del 1920 proprio con... Poi si capisce perché i calciatori si mettevano le fascette in testa. Ah beh, certo, perché respingere di testa un pallone di quelli, soprattutto sul fango, è come prendere un sasso. Senta, quanti pezzi sono esposti? Sono esposti 310 pezzi, con 3 sale finali, una sala particolare, perché essendo Vicenza, che è la sede storica dell'Associazione Italiana Calciatori, abbiamo dedicato una sala al Vicenza che, ricordo, annovera 2 dei 4 palloni d'oro italiani, Paolo Rossi e Roberto Baggio, gli altri 2 sono Gianni Rivera, che è venuto all'inaugurazione con tutti i vertici del calcio italiano, e l'altro è Fabio Cannavaro, che nel 2006, dopo la quarta vittoria del mondiale, ha portato a casa il pallone d'oro. Devo dire che al di là di questo ci sono veramente dei pezzi straordinari, ci sono 2 sale che secondo me per un appassionato di calcio meritano la visita a Vicenza, anche se questa mostra, come diceva Pierluigi, sarà itinerante, perché il prossimo anno contiamo di andare intanto Milano e Roma. E poi in altre città italiane che c'è. E allora ci vedremo quando adesso c'è Pardo, io sto diventando geloso, voglio vederlo anch'io, e ci vediamo presto. La ringrazio. Grazie mille. Pierluigi. Gianni è bravo istituzionale, ma è una figata pazzesca. No, ma ci credo. Io infatti sono invidioso come un cane nei tuoi confronti. Perché... Sono 2 cose. A parte la Basilica Palladiana, che chi conosce Vicenza lo sa benissimo, che è un meraviglioso edificio antico e moderno al tempo stesso, nel senso che comunque ha la struttura e la forma di un edificio moderno, no? È un edificio che potrebbe e che ha ospitato anche in passato anche cose moderne, quindi convention, riunioni, sì, addirittura partite di basket. E oltre a questo c'è una parte all'inizio multimediale con il profumo dell'erba bagnata e con una serie di frasi che appaiono sullo schermo, delle più grandi citazioni che sono state fatte sull'importanza del calcio, la Maradona che dice che se fosse in mezzo a un matrimonio vestito di bianco e gli arrivasse un pallone sporco di fango comunque lo stopperebbe, sì. Cantona, le frasi storiche di Bischenke, a Galeano, insomma, per noi che amiamo il calcio veramente lo consideriamo una forma d'arte popolare, è bellissima, è veramente il paradiso. No, non c'è ancora quella di Garcia, sono contento che vinceremo, che sono convinto che la mia Roma è la squadra più forte e vincerà lo scudetto. Questa frase non c'è ancora, ha fatto arrabbiare molti, ma ne parleremo in un'altra occasione ancora. Grazie Pier. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Tutti convocati. Alessandro Reggio Emilia, Alessandro Roma, velocissimi. Alessandro Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Carlo, ciao, buon pomeriggio a tutti. Al volo, due considerazioni. Un tuo ascoltatore prima ha detto che il numero limitato di squadre in Champions alza il livello. Per alzare il livello, secondo me sarebbe fondamentale almeno un play-out per arrivare alla quintultima squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Insomma, lì sì che davvero si alterebbe la competitività generale del campionato. Per quanto riguarda la Roma, invece, credo che la sconfitta di ieri sera potrà essere anche un mini esempio per chi affronterà la Roma in campionato, cioè pressarla alta, pressarla sui difensori che a volte col pallone tra i piedi non sono poi fenomenali. Sì. Chiaro che poi bisogna avere la qualità. Beh, bravo, bisogna avere la qualità, ma bisogna avere la qualità, ma anche il fisico del Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco è una squadra di Guardiola 2.0, cioè prova a giocare quel tipo di calcio con degli atleti che sono di un altro livello. Alessandro Roma, buongiorno. Non c'è Alessandro Roma. Allora, andiamo in Spagna. Stamos aquí, me parece raro pensar al partido de sábado, tenemos que pensar a ese partido, estamos todos pensando a este partido. Increíble, increíble esto, que estamos en Anfield y hablamos de los lesionados. Coentrao no está disponible, no es en la convocatoria, como no está disponible Bale. El partido de mañana es muy importante, todo lo que de bueno puedo decir de un partido, creo que lo va a ser mañana. Dos grandes equipos, creo que va a ser un partido muy espectacular, dos equipos que juegan un buen fútbol. E questo avete riconosciuto, Carlo Ancelotti che dice è incredibile, siamo ad Anfield Road e mi parlano degli infortunati. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Perché fai quelle domande false, tendenziose e così maliziose a Carlo Ancelotti? Perché? No, io non c'ero, quindi... Però ha un po' ragione, un po' no, perché non si può ignorare lo benedetto classico, dai. Lo so. Teoricamente il Liverpool è un avversario molto abbordabile, adesso sai, c'è la magia di Anfield, tutto quello che vuoi, però è una squadra in grave crisi e invece sabato qua al Bernabeu ne arriva una che ieri sera ha fatto a proposito, prima parlavi di Guardiola 2.0, ieri sera ho visto un Barcellona 2.0, se giocano così è un vero piacere. Sì. Ieri un primo tempo meraviglioso, poi anche lì bisogna vedere se l'Ajax Bravo, è un competitor credibile, perché sai come la penso io, Filippo? Io quest'anno insomma non ho mai visto così tanto distacco, così tanto scarto, poi magari esce il Dortmund di turno, Atletico Madrid di turno, quello che vuoi, perché questa storia della Champions League è bella perché è così, però non ho mai visto così tanto scarto potenziale tra due squadre, Bayern e Real e tutte le altre. Beh, anche il Chelsea, dai, non va vicino a queste due. No, non va vicino. Guarda che forte il Chelsea, sì, ma non va vicino a queste due. Non lo so, io invece non sono d'accordo, io lo vedo vicino. E anche il Barcellona che è in crescita, in costruzione, per me si avvicina molto. Cioè, adesso attenzione a Suarez. Cioè, Messi e Neymar sono una forma strepitosa, hanno fatto o assist o gol in 23 delle 26 reti segnate dal Barça. vanno a segno in coppia nelle ultime 5 partite. Sì. Attenzione, adesso arriva anche Suarez. Se fa poco il Cannibale, che evidenti a posto. Ma il domandone può essere sempre quello. Adesso arriva anche il Cannibale, che devi infilare in una squadra che sta funzionando. Sta provando Luis Enrique, ha fatto giocare tanto Sandro, Munir. Che sono dei cloni piccoli, esatto, piccoli, insomma, poi sono differenti, però io guarda, ho una curiosità mostruosa. Barcellona, cioè, a parte, cioè, i problemi di Barcellona sono altri, sono in difesa perché c'è Piqué che è più o meno inguardabile, sì. E poi c'è invece un Mascherano eccezionale a centrocampo. Non dirlo ai napoletani che diventa matti. Vabbè, ma non si sono manco mai avvicinati, ma che matti di ma di che stiamo parlando? Cioè, hanno comprato David Lopez. Ah, voleva, ma si è parlato di Mascherano per tanto tempo. Ma sì, si parla, certo, sì, si parla di tante cose. Sì, parla. Anche di Falcao si è parlato, sì, in Italia. Sì, sì, sì, è vero. Quello della Roma, però. Quello della Roma. Mi è venuta anche un po' così l'eccezione romana, no? Però vabbè. No, io ti dico, vabbè, ok, sono primo piano e sono quelle due squadre, ma è molto vicine il Chelsea e il Barcellona. Sì, come sta il Real? Ma, Real bene, e guarda, che questo infortunio di Bale in questo momento non so casca se fa tanto male, no, infatti, perché così sono dico, perché allora, Bale è un grandissimo atleta che però per me non sa giocare a calcio. Poi, ovviamente è una butata, però non sa giocare in squadra, lui gioca per conto suo, sì. Ogni tanto avendo dei compagni validi può scambiare il pallone così, però diciamo, no, il simbolo è lui, palla avanti a chi ci arriva prima. Non torna più, non aiuta, non difende. Sì, da quando poi ha deciso che fa l'attaccante, fa l'attaccante senza tornare. Così adesso fa l'attaccante e basta, lui non difende più, non aiuta più. E adesso, cioè, contro questo Barcellona, non gli viene malissimo questo infortunio. Sì. Vediamo, sono curioso di vedere stasera chi fa giocare Carlo, come giocano. Sì. Perché si parla di 4-4-2 con Isco a sinistra e James a destra. Vediamo, l'altro giorno con Levante è andata bene, però Levante non ha fatto un gol in 4 partite in casa. Sì, poi hanno anche cacciato allenatore, non esattamente la squadra più probante del mondo. L'Ajax era riuscito a pareggiare col Paris Saint-Germain. Sì. Quindi, vabbè, insomma, non lo so. No, io sono aspetto con grande ansia e entusiasmo il classico dietro l'angolo. Grazie Filzio, risentiamo a prestissimo. Ciao Filippo Maria Ricci, saluto anche voi cari amici ascoltatori, naturalmente torneremo domani alle 2, grazie a Claudia Schiattone in redazione con Alessandro Marco Tulli e a Roberto Scaltritti in regia. Ciao. Livorno Crotone 10, Bari Modena 11. Tesoro, è 1-0, 1-1. Viva l'ignoranza. Calcio di rigore, rigore per la Lazio, fallo di Zago su Mancini, lanciata a rete, l'arbitro non ha dubbi e decreta la massima punizione allo stadio a Ugelli de Robo, si segnata sto rigore, fa finta che l'anagrafe perché ci hanno segnato a matita. I giocatori della Roma ad allontanarsi, ad abbandonare l'area. Dottore, presto, non respira! Se la Lazio non è uscito,